Ebbene, ne scende l'aria fra poco. Ciao Bruce. Ciao Giovanni, stavo volevo restarti a mare. Ma l'aria ne pare, di buco si sente temporale, si sente. Temporale giro, c'è. Aspetta che c'è Luca, sta chiamando. E dove che sta chiamando? Io non sento nessuno. Hello. Attenzione, Gian Maria. Dimmi, sto, buonasera. Sì, buonasera. Allettermi i tuoni con i fulmini. Ehi, cazzo. Da me che te lo vendi. Io la bacio di Villanova, i tirichi la zona, e da un bel che prendeva, e prendeva per i forti a vero. Allora, passata la lira, se passate anche da bassi, buio. Ah, no, che non fa arrivi. No, che l'ha fatto Bocchi Cucci, ne ha fatto, e buio. No, che no. Cazzo, a posti no, che buio. Cazzo, a mezzo di, invece no. Ah, che da bassi, aspetta che da bassi, aspetta. Cazzo, Bonorra, in questa zona, Villanova, Tittiri, Forti Sigari e Alghero, ma io che non una gara. Ma no, che bassa dritta c'è in Nanda. Cazzo, a Timmy a passare no, che non lo so io, boh. secondo le direzioni del vento. Per carità, beh, c'è per questa zona, dico. Già una chiesa che prende il disastro, in questa zona, in questa bassa. E io che butta. Evidentemente ha paura di passare i nomi. Anche carregata la mia scusa, invece no. Sì, mi è rimasta in abbassi. Purtroppo. se veniamo cucciurati a noi. Tutta la base di arriera che tutta la sabbatti. Chissà. E andiamo dove andiamo? Mi sa che cosa ha fatto arrivare, come è arrivato. Cazzo, la grazia ragazzo dopo. Cazzo, si può mangiare. Cazzo, a fa capo di si faccia un capo. A chi ci piglia gli è più manna dei nomi, quindi deve passare poi per tanti i buri. A 10 passiamo che da arriva un rito, cazzo. I giasserini, i giasserisani, capito? Sant'Antonio ha detto che la sabbatta non vi tocca. Ah, ma già, dove si piace il fosse, tante interrazioni, come andai? E la città la macchina di fresca un po' che questa zona pure, e invece se pare che caggio, e avanti della rietta fresca, Ma prima c'era un'aria caggia, anzi non finiva l'aria, ma l'aria che c'era era caldissima. Purtroppo, più va e peggio è, e andare e anda. Ah, ma comunque mi ha fregato un po' garido. Ma se mi sono andato a tiro, cazzo. Io non che vivo un po' di ma non l'ho fatto. Cazzo, non gioco, ma... Già una chiesa veniva in questa zona, e io non che nulla. E fanno un po' di no, che muro, no. Ha detto Salvatore, infatti, a muro giù. Infatti, no, che non ne vuole lampare, va... A coso, a irri, e coso. No, che vuole lampare, che da gaima. Ma fa disastro è meglio che fosse a nulla. Tanti, ero fuori di un lappo con dei droni. Grazie, ancora le trepindacce. Perché? Buonasera. Buonasera, ti senti proprio della notte della pioggia. Ma non basta che si abbassi. Io che si è sorgente di tune, ma non è che ha piovuto. Ah, qualche goccia è passata. Sta Gian Maria, soltanto neve. L'acqua è passata qua, ma passata però. Ma no, perché la... Ho visto, ma no, non mi interessa. Lo comprate l'altro giorno. Buonasera a tutti, comunque. Ciao. parla. Buonasera anche a lei, signor Claudio. Sì, ma io qua la faccio che non entro in casa d'Arfi, no, io la faccio fuori. Ah, boh, fuori non lo so, non ho visto. Dentro da me già ne ho visto anche un macchino. Però, minchia, ma passata l'acqua. Fulmine, tutto è passato. 10 minuti, minchia. Adesso sta schiarendo, sta andando verso forse verso Olbia. Ma posso sentire lontana, sei tu, tipo. Ma infatti ho chiuso tutte le finestre, c'avevo le finestre aperte anche per un caso si butti a casa. Ho chiuso tutto perché te lo sa che entra l'acqua. Ma invece no, più. Dunque non vuoi sapere dov'è in temporale? Sono circa 30-40 secondi, quasi un minuto dal tuono, capito? E fai 300 per 3 e sei da temporale. Alghero è tutta quella zona lì. E c'è una distanza, una praticamente un calcolo che si fa da quando fa il fulmine al tuono, capito? E ti dà la distanza di dove è temporale. Cos'hai detto, tu? Ho detto che è alla parte di Alghero che sta passando. Alghero, Porto Torres, tutta quella zona lì sta prendendo. E già passata, già penso che arrivi anche a Sassari, dai. Capito, perché ancora vedo nero da qua. Però qua è già andata via. Passa, la prendiamo. Ah, ma come su cara macchina un po' garido burro. Cosa vuoi fare? Andate. Ripete sempre dai punti di vista, io non l'ho fatta la macchina. Vabbè. Sì, io si lava la misura, già è grossa questa. Auto lavaggio. Non è acqua sporca, non dovrebbe essere acqua sporca, perlomeno, perché era l'imbecio, quindi. Un po' di mettere un po' di imbecio ha fatto. Non dovrebbe essere acqua sporca. Vabbè. Adesso si sentono ancora i tuoni, sono arrivati altri. Ma si sta allontanando, già si sentono. Sono in distanza però. Prima erano minchia. Mi è imbarriata, ragazzi. Fatelo di media, gli trovo. Speriamo che è un grande di forte, se no mi faccia un gazebo. Sì, esagerato. E hai visto quelle tombe d'aria che ci sono state, capo? Si vedeva proprio, l'ho visto su internet, questa tomba d'aria che proprio tutto un disegno della tomba si vedeva mentre stavano camminando questi qua. Sì, l'ho visto, ho visto anche lì vicino a Livorno una tomba marina, è ancora peggio, quella prende in acqua. C'erano due barche ormeggiate ferme, le ha sollevate. Sollevate e ributtate, spaccate in due completamente, mamma mia. E meglio non arrivino mai queste cose, meglio non arrivino. In Alta Italia sono molto, spesso ci sono queste trombe d'aria, trombe marine, ma in Sardegna poche volte, ogni tanto, fui. In un anno magari una volta può succedere, ma lì succede spesso quando c'è un temporale. Tromba d'aria è micidiale, soprattutto nella zona di Trieste che c'è la bora. Un attimino che ha messo là. C'è anche il maremoto, invece che altro un malare, che ancora? Sì, il maremoto, lui, quindi io maremoto non è così facile, Sardegna è molto sicura, però le trombe marine, che sono quelle che praticamente partono dagli oceani, che vanno trascinandosi anche lungo il Mediterraneo, il Tirreno, eccetera, quelle sono molto pericolose. Sì, qualcuno già arriva a Cagliari, alla parte di Cagliari, quando è l'altro giorno, che si è alzata e ha buggiato da subito, però ha fatto poco danno. Sì, lì sì, perché è una zona molto più calda rispetto a Sassari, capito, alla provincia di Sassari. Cagliari è molto calda, come quindi può succedere più spesso rispetto a Sassari e dintorni, però sono sempre venti molto pericolosi. Mi ricordo quando ero via Pascoli con la tromba d'aria che era passata, aveva fatto bocco di casino 7-8 anni fa. Ma lì c'è anche Giovanni Maria. È andato un attimino che è arrivata gente, sempre gente a disturbarlo, questo uomo arriva, ragazzi. Bu bu. Vuol dire che c'è gente che va e che torna. c'è sempre usciti. Meglio usciti. Claudio, io ero a sorso in vitriato quando è successa quella tromba d'aria. Me ne ingaggio tornando da parte alla macchina. Meno male che non è arrivata la macchina e io sono passato sopra il rami, però me ne ha tracciato la pantana. Poi ha cominciato di si è barriata leva. Quando sono arrivato alle curve di Monterraggio scendeva l'acqua come il fiume che arrivava fino al coppa. Esatto, quel periodo lì, io non mi appasso. Non avevo mai visto una cosa del genere. Non mai avevo doppi fissi, avevo tutto già. Era ben fatta quella casa. Se no, ma un vento allucinante proprio che... mi ricordo, aveva lasciato lo stendino fuori senza niente e mia moglie abbiamo trovato dietro nel giardino di Adamo, dal vento che vera. Gente va e viene. Io che sempre alle torre. Cioè, i vicini sono sempre qua, io andiamo un po' là, un po' qua, un po' là, un po' qua. Però è così, quando c'hai, vedi, adesso è schiarito. Però si sentono ancora i tunnel in lontananza, non capisco perché. Che stia battendo adesso, boh. Li sento dalla parte della finestra, quindi dovrebbero essere dalla parte o di Ottava o Flattamona. Perché praticamente dalla parte dietro di Monte Oro è tutto pulito, quindi sicuramente sta camminando verso la costa. E ora manco si dappani di turisti. Si dappani. Vabbè. Oh, Totò, come ti sta arrivando? Sono nell'altra postazione. Aspetta, questo è un po' l'apparato, questo restringe. Ma dovresti essere 9.30, dovresti arrivarmi. La radio è bella pulita. Se non me lo segna più di 9 non va. Ho capito. No, tu sei 9.25 abbondante, vabbè, sono di fronte a te. Ottimo segnale Santenna, ottimi segnali veramente. Poi non c'è QRM, bella pulita. Vabbè, 5 metri e 60, 70. Un quarto d'onda, ma risponde molto bene. Non ne avete voi scariche nel baracchino? No, io no. Adesso non posso fare la scarica a tutto andare nel baracchino. Come scarica a terra, è un casino. Vata Pignano, non si è sentito? No, niente, oggi nulla. Ho sentito solo colpi di portante. Ho provato a entrare, non mi hanno risposto, allora siccome mi fanno perdere la pazienza queste cose, ho mollato tutto. No, a me mi dà fastidio quando uno schiaccia il portante, dice avanti e non entra. Allora non lascio perdere, non rispondo più. Vabbè, se ci sei, ti dico avanti, rispondi, no? Vabbè, pazienza. No, io avevo tutto spento, adesso mi sono seduto un attimino a rilassarmi al fresco. Perché è caldo umido, le stelle ci sono qua, 20... 24, 25, quasi 26 gradi ci sono esterni. È caldo, c'è caldo. Ero tutto a PC chiuso, abbiamo fatto la doccia, sono uscito dalla doccia, torna giù da lui. C'è un caldo umido, caldo umido. Gappa gappa, avanti tu. Accenno di radio, come te mai detto, ogni tanto se non rodrato. Adesso sì. Faccio dal microfono. Basta mettere un po' di sperma e contatti all'interno, vedi, dove c'è il PTT e ribassa tutto. Allora, lo stai uscendo. CRC va bene, io guarda, più che lo spray contatti uso CRC, perché lo spray contatti lo fa per un periodo e poi di nuovo te lo fa di nuovo, invece con CRC le buone o si dimenticheggia. Oh, se ci siete ci sentiamo dopo, dai, che devo fare due cosette qua, oppure un po' di verdura. Ok, la lascio tutto acceso, tanto sembra che il temporale sia passato. Ci sentiamo dopo, riprendi già. Sì, andare. sentiamo qua, dai. Favore, dove stai uscendo? Stai uscendo a tratti, stai uscendo male oppure ci passo basso? Vado a vedere adesso. No, non sto uscendo, infatti non si muovi. No. Qualche cosa non fa. Vabbè, tappa il microfono, ci spruzzi un po' di cerecine nel pittizzi, fatto io. Come hai le cerecine? Adesso, no, infatti, adesso già sta uscendo. Un po' gracchiante, stai uscendo male. Cambia il microfono, se no. Non hai altro microfono, è pulito. Ho una vite della casa. Tutta a tratti, te l'ha proprio fatta sparire la voce. Guarda bene se sto uscendo. Ora sì. Ci ho messo quello da tavolo. No, non lo so. Non è che sa ogni tanto cosa ringapetteggia. Ascolti, sì. Adesso sì. E ripara il microfono, smonta, non devi metterci il vicino. Te l'ho detto come fare. E adesso lo so così, da tutto, si andando, se no anda torna a trattare là. E anda, è molto perché si è infilata nel PTT. Tu gli dai una soffiata prima e poi gli butti un po' di CLC, vedrai che non lo fa più. Anche questo faceva così, lo sai, questo che sto parlando adesso. Sì, sì, no, invece è come raffermo, è da parecchio che non la doppia. No, ci va la polvere. Si infiltra la polvere, tu come vai a parlare, si mette in mezzo, quando tu premi il tasto, si mette in mezzo e non ti fa uscire. Sicuramente è quello lì. Una soffiata, poi di un tipo di CVC, se c'è quello spray per pulire il tastiere del computer, quello spray che manda l'aria. Quello lì e poi un po' di CVC, boh, fatelo io. E domani se c'ho tempo lo apro. No, Aisi. I rimoni dei coperti mi ha fatto, vedi lui. Sì, vabbè, 5 minuti miei sono parecchi. E sempre 5 minuti sono. Vabbè, dai, catta. Aspetta che facciamo entrare Gio Maria, se si è liberato. Ok, dai. Chi c'ha, che caso c'è? Buonasera, cara. Riprendi. Claudio si è sentato, è andato a pulire la verdura. Ah, d'accordo. Riprendo allora già, dai. Cazzo, io tocca fare un buon tiraglio, tocca fare, boh, tiraglio mi tocca aprirmi la cadria e gli fabbri e tanca. Fatti pagare a fine mese. Cazzo, ma te ne immagini, c'è solo, non so chi. Gio Maria, oggi è toccato a te. Cazzo, entra esci, boh. Tiraglio mi bozzichi per ciao. Ragazzo, tu ne butti. E allora? E a piccare lo stesso pianerotto. Io lo so. Almeno ce ne vicino, ma ti ricordi bene. E non si bibbia la zona, romanco. Io mi ricordo mio padre, ho vissuto per i miei figli, perché loro stuzzicavano, lo facevano ridere, si facevano raccontare storielle. Mio padre all'inizio quando andavo sta mamma stava sempre voglio morire da voi. Cominciato come i miei figli, ha cominciato a ridere, a fare, e lui ha vissuto tutti gli anni che ha vissuto proprio perché lo facevano giocare, lo facevano, lo distraevano, e se ne muse 96 anni, non ti riguarda. Però fa piacere, va. Fa piacere quando vengo e ti mettono su, fanno vedere, però stanno ieri, ecco, faccio vedere, così è tutto. Allora Gian Maria, è così, l'unica cosa che devi fare è che io non faccio due nipoti, ma non lo mangiare un bel ruccio, a settembre, non mangiare se devo accompagnarne uno ancora all'altro all'asilo. Vabbè, ma si sì, giovane, va qui ad allora che farà bene, ma io cazzo. Sai che sono un cracco che cammina in macchina, per me la sembra giovane che cammina in macchina. Oh, e poi questo cazzo, mamma mia, Io la sto cazzando, ma che a piazza di segni per fermare un gaggio, si può immaginare. Ieri sabato, l'ho fatto 52 km per andare a vedere la Luffa, dove mette sa zia. Ma ci ho fatto 52 km. Andà 52 a Turra. Cazzo! E bici, no? A bici, in macchina! Ah! Cazzo, vabbè. Quello è un dovere, io devi fare, va. Corretto, ce l'ho a Cosciolino e ce l'ho. Purtroppo è difficile. Va, vabbè. Già ripreso, va. Gianni! Ma chi si è sentito, no? Stamattina l'ho trovato, all'una meno 20. Ma qua rimane la gentile, boh. Certo, e cavolo se deve essere controllato anche lui. No, è stato a portargli un apparato che voleva, quello che ci dovevo gettare, e l'ha voluto lui. Ah, allora fai il silenzio. Era, e grazie, già saprà fare il silenzio, già se mi rompo. Che io l'ho chiamato anche due o tre volte oggi, evidentemente non l'ho acceso e campagna tranquillo, non l'ho sentito. Da ieri, no, ieri l'ho sentito, ieri sera, prima di rientrare, però dopo più tardi non è entrato. No. Ma sto arrivando da te, Giomari. Ah? Sto arrivando bene, sì. Quando scala, sì. Mi stai collando lo smith. Perché stavo parlando il presidente, stavo operando con il microfono da tavolo. Va bene, va benissimo. Sei da voi. Va bene, va bene, va bene. Io ogni tanto lo posso camminare, giù. Io si trovi da voi non ci serve più. Io sto usando 7008, anzi 7009, quello sto usando. Sì, a voglia, scatta. Va, poi siamo vicini, perché non ho problemi. Questo sì, arrivi lo smettere a fondo scala, arrivi. Per forza, siamo vicini, ragazzi. Luca ha chiuso, boh, era enorme, ma allora per la burocrazia vera, ed era nel nostro botanico. Sì, ha visto che era, ha cominciato a gotiggiare, allora ci sta entrato. Poi mi sono assentato, ma poi sono entrato, era il so che 27, il tasso è da 27, ora una giugana va giù di fa, a raggio, ciao. Hai andato a fare così quasi. E allora, cado una sacca, buona sedi, magari 10 minuti, la buona di Cuba, per carità, ed è stato già parato. Si è chiusa della gioca, chi si è comprato la gioca, si è comprato. Ma abbiamo fatto altro. Forse c'è così in divisa. Ma no, è molto asciutta, saluti. Ha sbagliato, il Mosetti l'ha comprato, lo vedi. Una cassetta se l'ha comprato. Così che ciao si rimane a Mosetti. 50 euro ragazza. No, 10,90 il chilo dice che l'ha pagato. Falla 4 kg, tanto so. Ma non l'ha preso, non pare che l'ho preso un chilo. Perché sono cassette da 5 kg sono, hai capito Giovanni? Un bel voce però 5 kg non bisò. Vabbè. Non è che si blocca tanto alle Monzette. Alla gioca sì. Alle Monzette non si blocca tanto. La giubilati, l'altra voce, la giubilati a 8,70 euro. Beh, tira. Scatta, come le volevo io. Quelle non grosse, grosse, ma quelle mezzane. Ah, ecco. No, sì, mi piace, sì, però no, ma ciò come piace io a me. Sì, anche a me, anche i lumaconi mi piacciono, però quando venne la magna, quando non venne, no, boh, ma cosa? Usa il radio? Forse c'è il gesto, non so. Dami, evidentemente sta andando a gente, scattemi no. A meno che non è passato da riva, da Edu. Ho preso. No, lo so Giovanni. Andiamo. Oh, cosa posso succedere? E ci avete detto Bacchisio, attenzione Bacchisio! Bacchisio è che si va ancora in campagna, il regime dei ferri, così che non ti risponde. E poi il Santenino che ha pigliato, non rende, a me mi sembra che non rende quella Santenino. Dice che ce l'ha messo dietro e sente a tutti, sente. O forse magari ricevo male io, però dovrebbe uscire bene, cazzo. Io a campagna sua è a Visino, non è lontano. Cazzo, e poi dovrebbe arrivare fortissimo. Se no, a malapena riesco a sentirlo in campagna. In campagna ci sono punti che no, che è negativo. C'è un punto che uscendo dalla campagna sua vicino al cancello che esce bene. Io quando me l'ho portato in macchina stavo uscendo da fuori il cancello. Può essere perché secondo i punti no. Noi ci capisci poco e niente. Ma anche in macchina non si rende. Non rende nemmeno in macchina un attimino, Ma per ecco magari va, però è l'antennino che non va tanto, capito? Ah, non lo so. Io so dell'antenna mia come funziona. Attenta, signor Bacchisito, che c'è da fare? Prima di chiudere, prima delle 8 già entra a salutarci, chi non è da fatto. Se non si rimane qualcuno da un'altra al garage. E c'è il socio, ti chiudo il passaggio, no? Di solito sì. E da voi tocca, ecco, ora in 70 di finisce, si cambia la macchina. Certo che andiamo e andiamo. Purtroppo è così. Ma dove ce l'hai il garage? Vicino a Lucca? No, presente c'è la panateria che c'è giù al coso, vicino al campo. Beh. La frutta e verdura attaccata. Ma quello che aveva visitato anche Saraccio. Però dietro la frutta e verdura. Ho capito. Lì parcheggiare un bel di macchina parcheggiare. Infatti, parcheggiare un bel di macchina, gli rimuovere da un attimo, buio. E devi agitare che ci può c'è la macchina. Come qua no, vabbè, non è che io dico niente, io posteggio sempre dietro qua, attaccato al portone, e adesso tutti lo sanno, non si mette nessuno, però quelli di vicino ogni tanto, se manco io, si mettono la macchina dove posteggio io. Cazzo, viene tanto il posteggio ad altri lati bucciali, proprio ad altri posteggio io. Pure da voi magari quando si tratta a farlo è posto, purtroppo, però in un caso è diversa la questione. Infatti, so che ancora non gli hanno dato il coso del segnale di remozione, ecco cosa è, lo sta aspettando. Ecco, io l'ho messo infatti, è l'unica, è così. Almeno qualcuno sa che lì non la può parcheggiare, non la parcheggia. Infatti, ed è così, uno sa che lì non la deve parcheggiare, non emette. E c'è zona remozione. Ma chi io aspetto un attimino, sto. Adesso ne attacco un altro, vede. E questo com'è? Questo è chiara la voce. Il segnale non l'ho visto. Vabbè, segnale, aspetta. Ecco qua. Allora non è più voce mia questa qua, confermi? No, anzi, è più chiara di poco fa. È proprio la voce tua adesso. È anche più alta. Questo è Galaxy, vero Giovanni? Ah? Questo è Galaxy. No, è Galaxy, si è riposato, che l'ha toccato più. No, è il 7009. È una bombola, è fortissima. No, è tua la voce, però è bella amplificata, bella forte. Mi fa piacere anche questo, non lo stavo più usando adesso. Adesso ho tolto a farlo scaldare un pochettino, la buzzo del rapolino, abbassi. E calcio l'ho usato avanti ieri, l'ho usato. E anche quello, no? Ne sto usando solo uno già. Però ogni tanto bisogna farli muovere, capito? Anche io faccio così, ogni tanto attacco uno, attacco l'altro. Ma quando sono truppi, non puoi stare sempre pulendo in venti, io uso sempre questo qui è il gas, è sempre quello che mi ha detto che è sempre il migliore di tutti gli altri. A me mi piace per la ricezione, c'è una ricezione fortissima, poi bella, chiara e forte, capito? Per quello mi piace il Galaxy, poi anche se è un marrasone, però mi piace averlo, uno mi piace, e questo non lo do, la settimana scorsa ho dato un altro, però mi è rimasto solo quest'altro, e questo è quello modificato, per cui no, me lo lascio. Capito, e ogni tanto bisogna accenderlo. Vai tu. Oh, questa è bella chiara, proprio bella la voce, è proprio amplificata anche, il segnale è forte. C'è un avviso tra te e te, quando parlatore devo alzare, quando parlato devo abbassare, anche troppo voce. Non ti intendo in radio, tu. Ciao Giovanni. Ciao Cla, come ti arrivo Cla? Una bomba, sì, 9.30, radio 5, adesso di fronte a te un bel forte, sì. Ah, gente, non ti intendo il tono di radio, non ti sento. Giovanni, l'Urac è ancora più umano di un Galaxy, una cosa allucinante, è solo che mi piace perché ha 2.20 e perché è una bella radio. L'avevo messa da parte, ma ho preferito usare questo per la 27. Però adesso tutte radio nuove, non le ho vecchie, io vecchie non le ho, c'ho le Galaxy, c'ho vecchie, io tutta roba nuova avevo preso, ma la GPS in bocca dirà, ma basta va però, a uno li faccio fuori, claro. Giovanni, poi te ne penti, mentre ci sei più fatto io, cosa, lasciateli, non ti stanno chiedendo niente, li conservi e ce li hai, un giorno ne togli uno, un giorno ne togli l'altro, io questo là chissà quanti anni ce l'ho, non l'ho mai dato, è l'uovo nuovo. Lo accendevo ogni tanto e basta. Però ecco, per la 27, anziché portare in campagna una radio di quelle che ho, no? 4.30, 4.40, quelle radio lì, se butto viso, attacco in pina, attacco l'antenna e funziona. Sì, si va la rovum, si va a Biglielucci. Però è una bella radio, un bel vintage degli anni 70, capito? Nuova. Qui Gianni ce l'ha vista. Guarda, penso, non voglio sbagliare, ma che sia il baracchino forse il più grande al mondo, non ce ne sono altri baracchini così grandi. Quella è una bella radio, è una bella radio veramente. Sì. Quello dura un'eternità, basta trattarlo bene, è dura, ecco. Sì. Non come questi da adesso, per carità, questo adesso secondo me lo usi, ti fasciali subito. Se li usi bene già funzionano, io sono 4.30, ce l'ho 12 anni, guarda, l'ho riparato una volta solo perché purtroppo sono radio e poi i condensatori con la roba lì si consuma, ma come problemi non me ne ha mai dato rispetto al 4.40, il 4.40 ogni 2 anni tocca mandarlo alla revisione come la macchina, è proprio una macchina, accidenti di radio vera che infatti mai più. Avanti già, riprendi. Gianni, non l'ha solo visto, ti ha fatto anche la corte per un periodo. Lo so già, ma tu sai benissimo, te l'ho spiegato. A te soprattutto te l'avrei dato volentieri, perché so che è come che sia qua. però non potevo perché avevo promesso a Daniele che non lo avrei mai dato, infatti ogni tanto quando ci sentiamo o ci vediamo me lo chiede. No, no, stai tranquillo, se vuoi ti mando la foto istantanea su WhatsApp, e a casa la radio non fa, capito? Già, se lui non mi diceva niente allora l'avrei anche data, perché c'avevo gente che mi voleva dare addirittura anche 450 euro e non l'ho mai data, capito? Io l'avevo pagata a $380 più il raddoppiamento, $400 mi era venuto, quindi, però non me l'avevo presa io, l'aveva preso il Walter, l'aveva preso tre, c'ero io, lui e Marco Scorpio, capito? E funziona bene, guarda, con l'EVM più 5 la stai sentendo, è una cannonata. A me va, me lo sta parlando, ce ne aveva due, uno che aveva la manopola che era tutta storta, e mi ha detto, se lo vuoi questo qua ti fa cambiare il perno della manopola e sei a posto. No, se mi dai me lo dai nuovo, se no non lo butto. Tanto mi piace bombe, però per qualcosa della manopola, sai come sono fatto io, se non è perfetta la cosa non mi piace. Oh, già. Sono fesserie quelle, sono fesserie. Allora a Vittorio ti facevi cambiare il potenziometro perché noi la manopola storta e la punta del potenziometro magari ha preso il colpo, facevi mettere il potenziometro nuovo, la sua manopola nuova, la radio era a posto. Sono fesserie. Ehi, quando ho comprato il coso, io ho comprato un HF, li avevano preso a calci all'SDA, non qua a Sassari, perché a Sassari mi conoscevano tutti, su vicino a Potenza, una cosa del genere, in provincia di Potenza forse, non mi ricordo. L'arrivo era, c'era il frontalino che non voleva visto, cosa faceva? Ce lo rimandava indietro. Mi sono attrezzato piano piano, tramite Fabrizio, Carlo, altra gente che c'era aperto di quella radio, l'abbiamo fatta nuova, non va nuova. Pazienza, purtroppo è così, perché quello lì non è che l'ha comprata così lui, magari gli hanno dato qualche colpo, capito, nel trasporto già, perché succede sempre così. Avanti, to, io a Trizza di Boni Radio. Guarda a vedere adesso. Adesso sei tu. Sempre sono io. Ma sei più forte di radio adesso. Perché io? Oh, ho girato le... cosa? Aspetta che fai, se no la freccia è troppo... Guarda a vedere adesso. Lasciala così, per fare questo occhio, va bene. Perché ho toccato il potenziometro, forse era quello lì era. Se te lo wikini tutto abbassato, lascia la manetta lo wikini. Così non gridi, perché anch'io avevo difficoltà. Tra Gio Maria e Gianni, che sono molto alti in radio, due arriva su basso e mi veniva un po' in salita, capito? Vabbè, c'è il buvura, io l'ho aperto, quindi non è che posso sollevare anche il volume, non disturba niente. Riprendi Gio Maria. Che adesso mi stai incollando dello svizzero, dottore. No, cazzo, ho dovuto attenuarti, cazzo. Bloccato, cazzo, ma non si muove più. Ma va bene così, lascialo così che è buon motto. Ok. Vai già. Cani, che aiuto sì. Cani, già parato, dottore. Ma adesso ho messo in vendita anche il 4,40. Non ne sto usando. Per cui l'ho messo in vendita, l'ho messo qua. Se me lo dicevi, me ne hanno dato uno da poco a me a vendere, se mi chiamano sempre, io faccio mano buona, e l'ho venduto a uno di Alghero, nuovo. No, guarda, Gio Maria, se non lo usi ti consiglio, guarda, per l'esperienza che ho, fallo fuori. Se lo usi tutti i giorni, va bene, ma se non lo tratti, fallo ora. Perché mi ti succede come stava succedendo a Giulio, come è successo a Franco Di Sorso, come è successo a me, capito? Ci vogliono poi 180 euro per cambiare tutti i condensatori e mettere a posto, riallineare e tutto. E tra l'altro poi Bianconi ha chiuso, non c'è più, quindi bisogna mandarlo alla CS Song. E so cariche la Brenda e so longhi che è un mese di maggio. Infatti, E solo quella persona c'era che faceva delle riparazioni veramente buone, giuste, ecco. No, da parte non lo sto usando, non è cosa, dimmi, l'ho messo da parte, l'ho messo in vendita, te lo faccio fuori, capito? Adesso lo faccio fuori, mi lascio questi qua e basta, claro, da ragione. E quello mio funziona bene, è stato cambiato solo quel pezzo di circuito della sintonia, se ti ricordi che l'avevo fatta a Vittorio, ma il resto sta funziona tutto perfettamente, capito? Adesso già 5-6 mesi che non lo tocco, mi sembra che domani lo tocco, vedo un po', lo accendo a vedere un po' se funziona, e se non funziona ti ricordi un guaccioletto, già, per carità, capito? Non vale più la pena, capito, aggiustarli? No, non ne vale più la pena, io ti ripeto, l'ho imparato perché era una cosa affettiva, io la radio che ho, il 440 che ho, era la morale Maricarlo. Il 440 è. E quindi quando è morto era sempre ferma, sono riuscito a convincere il figlio e me l'ha dato, ecco, se so che dai che vede la radio di Babbo guarda. Infatti quando si guasta non la riparo più perché non ne vale più la pena, oramai i 440 li trovi a 350 euro. Quando ti rimuovi anche 200 sopra, cosa la rivendi? Come ti vai a vendirla? E quindi ho detto, quando si guasta la prendo, la metto dentro la scatola e me la conservo. Come ricordo, come c'ho il VHF portatile della buon'anima di Tore, di Tore Live, quello non si tocca, ma manco ci mi date di 1000 euro, lo regalo dopo, mi c'è il portatile, capito? Perché quel portatile che aveva Tore la settimana prima di morire, che eravamo assieme, siamo andati in campagna, ho detto, io vi porto il portatile, se qualcuno ci facciamo due chiacchiere. E me l'ha dato proprio la figlia, mi ha detto, questo è il tuo, tienilo tu, e viaggio sempre ad un'altra radio. Quindi c'ho delle cose molto particolari che non va bene, come c'ho il portatilino lo stesso di Giampaolo, capito? C'ho delle cose molto che non darò mai. Le ghisse rimane in chili, grano si fascia, rimane in chili, buru turada, però mi la tengo come ricordo. Però tu Giomari, se la tua funziona ancora, falla fuori, svendila, vai che su metti biasi, ma mettiti i soldi in tasca, perché se ti si guasta tenendola così, ci vuole una barca di soldi aggiustarla. Una barca di soldi, perché Bianconi prendeva 180 euro, la Sensonga invece un griglia buono di più. Ma infatti, no, già funziona, è perfetta, è perfettissima. Adesso domani se mi ricordo lo riaccendo a vedere un po'. Dai fatti, lasciarlo troppo fermo, ci guasterò sì. Già, il 440 è perfetto, salvo che se seguita vai chi ci metti. A me dai un mese che l'abbiamo acceso, funzionava tutto perfettamente, adesso domani lo tolgo e lo faccio funzionare, riprende già. E con questo apparecchio, Claudio, come ti arrivo di segnale? Sto uscendo con 3 watt. No, 20 sei già, no, ma arrivate bene tutti, no, non ce n'è problema, 9,20 sei già, con l'altra di 9 quasi 25. Questa qui è con 3 watt adesso uscendo. Già va bene, dai. Il cobra è già. Questo qua è un Midland, però è abbastanza infatti, capito? L'ho messo a prezzo. Ah, pensavo fossi il cobra. Perché tu c'hai il cobra, se non sbaglio, no? Ma c'ho anche il cobra. Io c'ho il 200 XCL. Quello lì c'ho ancora. E anche quello è ferro, non a parte. Adesso così dico, non lo so. Ma tu quale c'hai? La versione da 200 watt, già mai? Anche quello c'ho. Nuovo quello lì è dentro la cazzo, raga, rondocca. Io c'ho quello omologato 5 watt, 4 watt e mezzo, mi pare che sia 5 watt, quello omologato marchio c'è. Ma il cobra stai dicendo? No, Giovanni c'ha come quello che c'è Massimiliano, l'ho provato, mamma mia cos'è quella radio. Lasci un bucio Giovanni, a manetta di bottezza, l'ha già attaccato un'antenna di 20 metri. C'era un question in Alta Italia, sono entrato, mi ha detto, ehi, questa radio, col microfono normale, è questa radio fortissima che c'è. Ho detto, guarda, ti dico la verità, sto usando un baracchino c'è anche i 10 metri. Era da paura. La potenza in SSB mirava intorno ai 160-170 watt modulati, più di un 440 lì da zia. È forte. Ma io non l'ho usato mai a massima potenza, ma sempre con 5 watt, perché non mi interessava la potenza, non mi è mai interessata, per cui l'ho, una volta solo l'ho provato così a manetta, e lo voleva il mio Massimiliano, il mio, però non gliel'ho dato, e non l'ho perché l'apparecchio mi piace troppo, anche se non lo uso, ma mi piace averlo davanti, ed è un bombo, ma è troppo bello questo apparecchio, capito? Poi c'ha la, le alette di raffreddamento dietro, quando lo metti a manetta e gli dà ragione, come ti cadi? Ma ce n'è anche sotto la pancia le alette. Se quello che c'è Massimiliano è una potente salvaggio, è troppo bella esteticamente, io ce l'ho fatto. Il funzionamento è eccezionale proprio, anche io ho provato a metterli con l'adattatore perché era diverso l'attacco. Questo microfono è MB5 e questi l'ho comprato da Gigi Vulcano, è modificato il microfono. Nuovo nuovo, modificato dentro e basta. Ma tu devi sentire la radio, era meglio di quella dell'MC60, una cosa allucinante. Una cosa allucinante, veramente bella quella radio, bella. Se sento qualcuno, Giovanni, te lo dico, intanto c'è il numero di telefono tuo, te lo dico e te lo faccio vendere quel 440, ma continuiamo a mettere i beni. Prima che gli rimanga a Vemmo, era buio, un casino a venderlo, come ha fatto Gianni Caprilue, che l'ha lasciato fermo, si è guastato e l'ha dovuto vendere 200 euro. Perché chiaramente cosa fai? Lo dai così e te lo ripari tu, perché per ripararlo ce ne vuole altre 200. Tra viaggio e tutto mi dimostra 200, quindi è meglio venderlo a prezzo pieno, al prezzo suo, e così lo fai fuori. Sì, perché non lo uso, capito? E dunque lasciarlo lì fermo, perché se trovo la quella già lo do, ecco. Se ti capita, lo do, capito qua. Ok, facciamo riprendere la Tore. Tore! Bello, sì, venditelo, venditelo, che è meglio. Ho comprato Tore. No, mi basta che sei equipaggio, boh, basta, non ne spendo più altri soldi. Tu Tore c'hai 14, no? Di quella serie lì. Sì, c'ho quella che, quello là, sì. Tutte famose per andare. Ma poi già che avete parlato in due, che siete tutti e due fortissimi, cosa hai detto già? Detto il periodo di compro vendo scambio, i soldi che ti abbiamo buttato. Mamma mia, già, non me lo fa aumentare, non me lo fa aumentare, ma poi ho continuato col parco antenne, adesso appena va il figlio di Massimiliano mi ha promesso una mattina, viene, mi abbassa tutto e poi io piano piano me le smonto, le metto dentro le scatole, non le lascio qua all'intemperie d'inverno, capito? Mi basta l'antenna che ho multibanda con il dipolo dei 40 e l'antenna VU, basta, ma le direttive le tolgo, sono più di 2000 euro sul tetto, non le busso da Gagussi, capito? Anche se Fabrizio ha fatto un capolavoro perché l'invento ne ha tirato, manco si muovono, però si rovinano perché non le sto usando, il rotore poi si inceppa e non va bene, smonto tutto e metto tutto dentro le scatole che ce li ho e conservo tutto, capito? No, tu c'hai una signora a radio, perché io guarda, ne ho avuto 15, ma te lo dico proprio come numero esatto, 15 di 140, che mi abbia mai difettato una volta uno di quelle radio, una, il signor Tanta mi ha difettato una volta, capito? Ma il 140 mai, come il 430 che è tutto meccanico, quello mai, ma il 440 io ne ho già avuto minimo 7-8, ma tutte uguali, lo stesso difetto, dopo 2-3 anni sempre a mandarli alla revisione. Una volta me l'ha sistemato Fabrizio, capito? Poi invece ho iniziato, la seconda volta l'ho dovuto mandare al centro assistenza, la terza volta me l'aveva fatto Carlo di Chiaramonti, insomma sempre così, sempre così. Aveva aggiunto che perché revisionato me l'avevano fatto Guidetti prima, Bianconi prima di chiudere, l'ha aggiunto a Righi, si ferma, vuol mettere in scatola e non lo do più. Si arrangia, era Franco lo stesso. Franco andate a vedere, andate a tenirlo, una lì, tutti i puntini. Niente da fare, nulla. L'ha dovuto dare così perché no, non c'era niente da fare, mentre il 140 e anche il 680 difettano molto meno. 430 blu più è un caterpillar. ma 4,40 è una cosa allucinante. Vai Gio Marino. Infatti vanno bene, dai, vanno bene. No, il mio è andato sempre bene, per cui da quando ce l'ho un sacco d'anni, abbiamo cambiato solo quel circuito della sintonia, se ti ricordi, già l'hai visto da Vittorio. Questo circuito ho cambiato, e adesso, ma adesso è a posto al 100%, perché io roba che non funziona bene non le do, preferisco lasciare buttarla, però non le do. Quando la do deve essere perfetta al 100%, tutto lì là. No, ma è giusto, anche io sono così, se c'è un difetto io non me lo do radio, non voglio rotture scarpe o bisticciare per una radio, assolutamente, io 4,40 mio lo posso dare tranquillamente perché è tutto revisionato, ma anche 4,30 lo stesso me l'avevo revisionato Fabrizio, poi l'avrei mandato nuovamente da Bianconi perché c'era un falso contatto che quando parlavo si spegneva e quindi anche quello era a posto, però non le do, 4,40 non lo do, 4,30 non lo tengo, 4,40 non lo do perché te l'ho detto di chi era e me lo devo tenere per forza. No, ma tu non hai cambiato il circuito, tu hai cambiato il potenziometro, quello del VFO centrale, capito? Tu hai cambiato quello lì che è un pezzo di ricambio, non hai cambiato il circuito, perché si era inchiodato, mi ricordo perfettamente, ero a Vittorio io quando tu te ne eri appena andato, infatti ho detto chi sta radio, ma questo mi sono mai detto, Maria mi ha portato a cambiare la manopola del VFO perché si è inchiodata, capito? Però è roba meccanica quella, non è roba di radio, tu non hai cambiato mai nulla, questa radio è perfetta. Eia, perfetta, ecco, è perfettissima. Sore! Ehi Gio Marì, vabbè, purtroppo ce l'avevo tanti anni fa anche, me l'ha già venduto, ho venduto tutte le apparecchie che c'avevo, ma va invece di stare a recuperati. Ma che succede così, to? Succede così, non Gianni, già lo già. Una compravendita allucinante, vendevo e compravo, ma nel 2017 ho fatto proprio una cosa allucinante, ho comprato due HF nuovi, di cui uno l'ho venduto fortunatamente, uno me lo sono tenuto, ma sto parlando del bello amatoriale radio di 2.000-2.700 euro l'una. Più hanno fatto un parco antenne, guarda. Tutto quello che mi avevo messo a parte durante l'estate, perché l'estate lo facevo molti, molti straordinari, quindi me li tenevo io, mia moglie mi lasciava a me, quindi me li mettevo a parte, infatti lì si cazzava, cioè, ma è mai possibile che ogni anno ti fai un matto per lavorare e poi vai a buttare i soldi in queste radio? E infatti ho detto basta, boh, finito, io dal 2017 non ho più comprato niente, metà del 2017. Non ho più comprato niente, siamo già quasi a metà del 2018, non ho comprato più nulla, e non comprare più nulla, finito, tanto sono soldi buttati che non servono a niente, vai già. Io prendo il microfono di saluto, che sono anche sul vulcano, mi staranno aspettando adesso. Vabbè, dai, ci sentiamo, un pochino presso occhio. Mi ha fatto piacere proprio di sentire l'acqua spesso. Ciao ciao. Comunque sto facendo bene di radio con questo apparecchio. Ottimo. Vabbè, ci sentiamo, dai. Buona serata. Questo è quello della macchina, dal bippi l'ho conosciuto. Questo è quello della macchina, quello che c'è per macchina. Che macchina non c'entra da più. A me da te si può fare una cosa del genere, lascia perdere. Tienitela a casa, quando vuoi lo usi e se no lascia tu l'altro, già non si guarda chi c'è. Questo qui l'ho pagato 400 euro, quindi non lo do di meno. Se per darlo, per regalarlo non lo regalo. Ma è un signor apparecchio, mi ha dato sempre le cose soddisfazioni dalla macchina. Io ho dato a Valerio, gli ho dato il Superstar Colt, quello che c'avevo io, che era l'ultimo che era rimasto nuovo, ma nuovo però, si è spaventato quando l'ha visto, nuovo, il Colt, il 3009 Colt, l'ho dato perché tanto anch'io non lo uso, mi sono tenuto all'ala 48 e basta. Va bene, ciao già, buona passeggiata, buon tutto, alle prossime, vai tu. Ok, ciao già, fatti sentire ogni tanto, ci sentiamo, alle prossime, buona passeggiata, riprendi Gio Marì. E anche io ne approfitto, dai. Ciao già, ci sentiamo, buon proseguimento, alle prossime. Va bene, ne approfitto, Otto. Buon proseguimento, saluto in casa, ci sentiamo domani. Saluta Bachiglio, che rientra. Ciao qua. Ha fatto piacere averti sentito, saluto in casa anche a te, a domani se qui ci dai. Riprende qua, chiudo. Ciao Giovanni, cosa ha cambiato anche da parte nostra? Ok, e adesso abbiamo messo questa antenna, già mi faccio sentire ogni tanto. Siamo nel tempo verde, intanto tutta l'estate siamo qua. Ciao, buona cena, buon tutto, saluti a casa. Vai Tom, un altro passaggio, te andiamo a mangiare per noi, aiuto. Ok, ciao Gianmarie, ci sentiamo alle prossime, ok, buona cena. Ciao Gianmarie. Ok, ciao Kid. E Gaiesle. E tu puoi prendere la vita campagna, Tom? Non me l'hanno dato soldi. No, non me li hanno voluto dare, più di 30.000 non me ne davano. Giusto, si deve dire, ti arrivi subito. Vabbè, no, io è stata un'operazione molto veloce, non bancaria. Ok, va bene, però non ce l'ho, dove abito io, non so se sai dove abito, su Carbonati, è un quieto vivere, c'è un giardino grandissimo, enorme, tutto alberato, tutto chiuso, tutto recintato, con cancello elettrico, quindi puoi giocare col cane, farai osso, appagliati rubecchi, i giapanchini e tutto. Però qua un'altra storia, e vabbè. L'inverno vuol dire che ne siamo a Carbonati, stavo Marco. L'estate me l'ho voluta. Ma non era colpa della banca, è colpa dell'Inps che no, più di quel tanto non ti fa dare, ecco cosa è l'Inps che non ti fa sganciare. In base alla pensione praticamente loro fanno i calcoli, di più di questo tu non puoi prendere, riuscire. E allora, era proprio per quello. E Agito, ma cosa c'entra l'Inps con me, Agito? Se io devo pagare quello però tutta cosa, l'Inps più di 30.000 non gliene fa avere. Sì, perché c'è un conflitto di soldi, casino. E vabbè, ciao Biglielucci, quindi alla prossima, capiterà qualche altra occasione che ti basta quella cifra e te la prendi. Ce n'era una lì vicino a San Camillo, ma era più alta, 45, una bella casetta c'era, una cinquantina di metri quadri era la casa, però abitabile, molto bella, per due o tre persone andava benissimo, invece avevano due camerette, il salone piccolino là, l'angolo cottura, un bel bagno, a veranda, e un giardino con frutteto favoloso. Solo che per me è troppo distante, capito? Troppo distante, io sono più di fronte a te. Se abbiamo un balcone ti vedo, io sono di fronte, proprio ci sono i ripetitori, quello alto di Monteoro. Sono di fronte a te, sotto ripetitore. Vabbè, guarda. Che tanto non mi puro. Vabbè, dai. Io la stavo prendendo più che altro per cosa la stavo prendendo, per metterci i cani, 3-4 mesi e non di più, no, non per altro, stavo prendendo per quello. Gappa, vabbè, no, io non voglio i cani, c'è anche stamattina, ho portato la vara alle 10, me l'hai dato a Londra, sì, perché non lavo più fuori. Ogni volta lo lavo ora, a quanto sto a asciugarlo, si trascineggia in terra e si va di donna beffa, gli dico no, non mi butti più, mi faccio il mazzo per lavarlo e poi va nell'erba e si struscia tutto e come che non l'hai lavato. E allora l'ho portato la Monica lì via Pasqua alle 10, mi ha dato alle 11, bello pulito, bello profumato, anzi adesso lo faccio uscire così si fa una corsetta. Va bene, dai, che qua la signora intanto mi sta chiamando, ho visto che è entrato Fabrizio. Ciao Fabrizio, sto chiudendo proprio per te che entri a quest'ora. Ti lascio con Tore, un abbraccio caloroso e ci sentiamo alle prossime. Avanti Fabrizio, ciao a te. Ok, ciao. più che altro, vabbè, là. Ci sentiamo le prossime. Ehi, Antonio, ci sentiamo, dai. Ah, la tua stessa strada, dai, che sto chiudendo, se l'ho, se l'ha, visto che ho sentito Claudio, era un po' sentivo. Vabbè, stai su, statevi bene, buon divertimento, ci sentiamo, là, ciao, ciao. Sì, ok, ciao Fabri, ci sentiamo le prossime. Ciao, ciao. Ciao Fabri, ciao, io ogni tanto, dai, quando c'ho 5 minuti, già mi faccio sentire, non ci sono mai a casa. Ormai sono pensionato, quindi mi sto andando alla campagna. Ciao Fabri, alle prossime, ciao, ciao. Ok, ci sentiamo, ciao, ciao, ciao.